speciale, la politica nel tunnel. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla postazione di Radio 24 a Montecitorio. Buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta. Ore decisive per il governo di larghe intese. Giorgio Napolitano accelera i tempi per uscire dallo stallo politico. Oggi tutte le consultazioni, questa sera il probabile incarico per un governo PDL PD Scelta Civica. Ricordiamo il numero degli SMS per i nostri ascoltatori: 349-238-6666. E governo tecnico-politico, questa è la domanda che si pone l'Italia in queste ore. Intanto il sindaco di Firenze Matteo Renzi è entrato alla direzione nazionale del PD e ha smentito di voler diventare premier come qualcuno suggerisce. Diciamo anche che è iniziata la direzione nazionale del PD, il segretario Pierluigi Bersani conferma le sue dimissioni, ma ha detto anche sul Quirinale: non è stato un episodio, è questo il dramma, siamo una storia di successo, ma siamo stati messi di fronte alle nostre responsabilità in questo momento critico, e quindi fa appello a una disciplina interna. Adesso sta parlando invece Enrico Letta, che dopo Renzi era quello indicato più come più probabile premier. Ma sentiamo allora che cosa ha detto il renziano Ermete Realacci sulla possibile candidatura di Renzi a Palazzo Chigi. Mi sembra chiaro che noi non possiamo passare, diciamo, da una fase drammatica in cui chiaramente non abbiamo dato grande prova del Partito Democratico. Penso in particolare a quei 100 franchi tiratori su Prodi, che sono un'infamia, a una scelta in questo momento non solo obbligata ma anche giusta. Noi abbiamo visto ieri un discorso di Napolitano di forza, di lucidità, sferzante nei confronti anche dei ritardi della politica e dei partiti, e animato da una passione per l'Italia che io francamente apprezzo molto e condivido, diciamo. Ma questo discorso è stato applaudito in maniera scrosciante dai partiti in generale e dal Partito Democratico in particolare. Non si può dire che Napolitano sia stato reticente nell'indicare una strada. Mi sembra complicato che noi oggi nella direzione possiamo spostarci da questa strada. Dopodiché, per quanto riguarda la vicenda di Renzi, sì, vedo che se ne parla sui giornali. Da amico gli consiglierei di essere cauto in questa questione. È chiaro che se ci fosse una richiesta di impegno in questo momento così difficile e delicato del Paese, lui non potrebbe dire di no, ma dovrebbe essere una richiesta di impegno convinta, condivisa condivisa non solo ovviamente dal Presidente della Repubblica ma dall'insieme delle forze politiche, delle forze sociali del Paese, che corrisponderebbe alla necessità di agire non solo con tempestività ed efficacia sul fronte economico e sociale, che è il fronte più delicato, ma anche sul fronte della ricostruzione di un rapporto fra politica e cittadini. Su quello Renzi ha un valore aggiunto difficilmente sostituibile. E abbiamo sentito il renziano Realacci consiglia cautela al sindaco di Firenze in vista di quest'ipotesi di andare a Palazzo Chigi. Gli SMS dei nostri ascoltatori: 349-238-6666. I politici fanno solo chiacchiere, zero fatti, scrive Marco. E se facessimo un Monti bis? Questa è la domanda di un nostro ascoltatore. Intanto ricordiamo le parole di Pierluigi Bersani alla direzione nazionale del PD: ci vuole una ragionata disponibilità a ricercare tutti insieme una soluzione di governo, mettendo a disposizione le nostre forze e le nostre risorse. Quindi questo sarà quello che andranno a dire Zanda e Speranza al Capo dello Stato questa sera. Vincenzo. E le consultazioni sono veramente lampo oggi di Giorgio Napolitano. Il Capo dello Stato vuole chiudere tutto in serata, e in questo momento al Quirinale c'è la delegazione della Lega che ha bruciato la candidatura di Giuliano Amato, ponendo il veto su l'ex premier. Questa mattina è arrivato il no di Sinistra Ecologia e Libertà al governissimo con il Popolo della Libertà. Sentiamo il perché da Nichi Vendola. Noi siamo in totale disaccordo con l'operazione politica della nascita in corso di un governo di larghe intese tra Partito Democratico e Popolo della Libertà. So che è difficile allearsi nel nome, diciamo, dell'emergenza sociale e economica che vive il Paese con coloro che hanno portato l'Italia in questa condizione catastrofica. Il blocco berlusconiano è l'autore del delitto che vede l'Italia oggi sofferente, che vede la scuola pubblica devastata, che vede il sistema economico in una condizione di assoluta precarietà. Immaginare, diciamo, di poter salvare l'Italia con coloro che l'hanno soffocata è per noi impossibile. Per questo pensiamo che la buona politica sia la rivendicazione del diritto a una contesa tra idee e programmi alternativi. A qualunque formula di governissimo noi diremo di no. Il PD si impegna a sostenere il governo, così il dispositivo messo ai voti nella direzione nazionale del Partito Democratico. Intanto interlocutorio l'incontro con Fratelli d'Italia e il Capo dello Stato. Giorgio Meloni dice no ad un governo di larghe intese, ma Ignazio La Russa prende tempo, sentiamoli. Abbiamo ribadito al presidente Napolitano una posizione che l'Italia ormai conosce in modo chiaro rispetto alla indisponibilità di Fratelli d'Italia sulla ipotesi di un presunto governo delle larghe intese, cioè di un governo che avesse la presunzione di mettere insieme persone e storie diametralmente opposte, molto distanti tra loro, perché abbiamo già visto con l'esperienza del governo Monti quanto sia difficile immaginare le risposte coraggiose che all'Italia servono con un governo i cui rappresentanti, i cui membri della maggioranza la pensano in maniera diametralmente opposta tendenzialmente su tutte le questioni più importanti. Si rischia un eterno compromesso a ribasso che non è quello di cui l'Italia ha bisogno. Questo non vuol dire che Fratelli d'Italia non sarà assolutamente disposta a votare dei provvedimenti che anche da questo governo dovessero arrivare. I nomi non ne abbiamo fatti, ma certamente Renzi è uno di quelli che risponde a questa tipologia, ma nomi non ne facciamo neanche adesso e non basta un nome solo. Spero che Renzi non cada nella trappola, ci scrive un ascoltatore. E poi ancora, ma come fa il PD con il PDL contro la maggior parte dei suoi elettori? Questa è la domanda di un altro ascoltatore. Ma veniamo al Movimento 5 Stelle, anche il Movimento salirà al Quirinale. C'era il dubbio, Elisabetta, che i capigruppo decidessero proprio di non andare da Giorgio Napolitano, invece andranno tra circa mezz'ora. Fa discutere intanto l'intervista provocatoria di Beppe Grillo alla Bild. I partiti lottano per la sopravvivenza, non siamo noi a sabotare i partiti ma loro a sabotare se stessi, dice Grillo. L'ex comico prevede in autunno l'Italia sarà in bancarotta e auspica che la Germania ci invada. Elisabetta, quindi frasi abbastanza... Ma è la primavera? Ah no, no, no, potrebbe essere la botta del Friuli dove il Movimento 5 Stelle è ribasso che fa male, o forse anche solo i 28.000 che hanno votato alle Quirinarie, che hanno riempito le pagine dei giornali. Ricordiamo, siamo una nazione di 60 milioni di persone. Ma sentiamo cosa ci ha detto il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, Movimento 5 Stelle. E se questo governo di larghe intese, che poi in realtà è un governo annunciato perché l'elezione di Napolitano significava proprio questo, cioè che PD e PDL si alleassero in un governo insieme, se questo governo deve essere un governo del non fare, okay, cioè del non toccare il conflitto di interessi, del non toccare una serie di temi cari all'una e all'altra parte, sarà l'ennesimo governo con il nulla di fatto, che vedrà a questo punto, come ha minacciato tra virgolette il presidente Napolitano, le dimissioni del presidente della Repubblica. Se invece è un governo che vuole fare, allora tra i primi punti ci sono reddito di cittadinanza, sostegno alla piccola e media impresa e legge elettorale, passando poi per una legge anticorruzione e una sul conflitto di interessi. Queste sono ancora una volta i partiti alla prova dei fatti. È chiaro che però, insomma, le attese da parte nostra, da parte del Movimento 5 Stelle, sono quelle di sempre. Non possiamo pensare di chiedere di risolvere i problemi di questo paese a chi li ha creati. Il no del Movimento 5 Stelle a questa ipotesi di governo è totale, o prima lo metterete alla prova dei fatti? Vi potrebbe essere un provvedimento sul quale questo governo potrebbe avere anche i vostri voti? Come abbiamo sempre detto, ed è lo spirito con cui siamo arrivati qui, legge per legge, provvedimento per provvedimento, valuteremo e proporremo. Quindi ci sarà sicuramente, si sfrutterà al massimo tutti i luoghi di questo Parlamento dove si discutono le leggi. È chiaro però che c'è molta perplessità sul fatto che il più contento di questo governo di larghe intese sia proprio Silvio Berlusconi, che secondo noi qui i suoi governi e le sue maggioranze negli anni non hanno agito per il bene comune. E c'è qualche nostro ascoltatore, Elisabetta, che risponde subito all'invito di Grillo, perché la Germania non ci invade, ha detto oggi Grillo. Con Grillo, allora, dice il nostro ascoltatore, falliamo prima dell'autunno, perché non se ne va lui in Germania e ci libera della sua inutile e fastidiosa presenza, scrive un ascoltatore. Un altro dice invece, segno opposto, il Movimento 5 Stelle ha guadagnato 6 punti solo per come i volponi della politica hanno gestito l'elezione del Presidente della Repubblica, perché non ne fate cenno voi radiogiornalisti, ci chiede Fabio. Elisabetta, veramente in Friuli hanno preso, insomma, una botta, sono andati sotto il 20%, quindi noi ci atteniamo ai dati che escono dalle urne. Ora i sondaggi ultimissimi li vedremo fra un po', ma assolutamente sappiamo che l'Italia è un po' divisa, no, tra grillini e antigrillini, per cui noi rispettiamo tutte le posizioni. Intanto però veniamo a parlare del dramma, che si sta, dello psicodramma che si sta svolgendo all'interno del Partito Democratico. Il segretario Pierluigi Bersani ribadisce durante la direzione nazionale in corso in questi minuti: il partito non è in abbandono, la direzione operativa, i gruppi parlamentari anche, il vice segretario e il tesoriero in pienezza di potere. Ricordiamo, il vice segretario è Enrico Letta, che andrà alle consultazioni insieme con i capigruppo Speranza e Zanda, quindi si è aggiunto Enrico Letta, Vincenzo. Questa l'ultima novità. E veniamo poi al PDL, che succede nel Popolo della Libertà? Il PDL dice governissimo o voto. Un nostro ascoltatore ci chiede: ma come fa il PDL a stare insieme ai comunisti e paracomunisti? Che ne sappiamo, speriamo per il bene del paese che ci riescano, noi diciamo così. E allora diciamo che il PDL continua a dire o governo o si va al voto. Si sa che i sondaggi invece danno il PDL in rialzo. Allora noi salutiamo i nostri radioascoltatori, un saluto da Elisabetta Fiorito e da Vincenzo Miglietta.